Ed è vero, ciao ragazzi, ciao, sono Roberto e state ascoltando a Ciao Ragazzi per un'altra settimana. Come state? Spero che state abbastanza bene, che non siete troppo tristi che la settimana scorsa non c'è stata una trasmissione di Ciao Ragazzi. Spero in una rimonta questa settimana. Mi faccio perdonare per la settimana scorsa che non è stato possibile fare una trasmissione di Ciao Ragazzi. Comunque, in questa puntata di Ciao Ragazzi torna il giornale radio, gli eventi della settimana più importanti dell'attualità, notizie di politica eccetera, come sapete. Una nuova rubrica questa settimana, scusate c'è un po' di tosse, sai che succede quando si abbassa la temperatura, le persone si ammalano. Come stavo per dire, una nuova rubrica, cioè questa settimana nella storia. Interessante, vero? Ma che cosa è successo nel 1989, questa settimana, che sarebbe la settimana del 14-15 aprile, diciamo, metà aprile? Una cosa abbastanza interessante che alcuni di voi ricorderete, se eravate vivi in quel periodo, 1989, quanto tempo fa era? 18 anni fa. Questa settimana diverse canzoni nuove pure, mi sono dato da fare. Sentiremo un po' di Daniele Silvestri con la canzone che ha presentato a Sanremo, Zero Assoluto, con una loro canzone proposta a Sanremo 2007, sono finalmente arrivate queste canzoni. Poi un po' di Tiziano Ferro, canzone nuova anche per lui, e Vasco Rossi. C'è un po' di tutto questa puntata di Ciao Ragazzi. Tornano gli annunci locali, gli annunci che riguardano la comunità, associazioni eccetera. E come di solito ci sono anch'io. Anche un'altra cosa, mi sono quasi dimenticato di dirla. Una telefonata in Italia, sai che ogni tanto mi prende la voglia di chiamare in Italia qualcuno che conosco e fare una chiacchierata in onda, per il beneficio di voi, non è mica per me, non è che mi diverto io, di divertire voi ad ascoltarmi parlare al telefono. Questa settimana parlerò con Laura, una simpatica ragazza di Roma che si sta laureando in medicina e sta scrivendo la tesi, parleremo con lei. Bene, bene. Vi sento molto interessati in questa cosa. Comunque, ciao ragazzi, sono le 11 e... è possibile? Le 11 e 7 minuti già, non è che ho parlato talmente tanto? No, non ho parlato per 7 minuti. Comunque, questa settimana la prima canzone che sentirete si tratta di Neck con Instabile. L'avete sentito prima? Ve la ripropongo. Questa è Neck con Instabile. State ascoltando a Ciao Ragazzi. E bentornati a Ciao Ragazzi, e adesso notizie, questa è la nostra sigla che fa un po' cagare, ringraziamo l'informazione libere fornitoci da Wikipedia per queste notizie della settimana. Dunque, ancora esplosione a Casablanca, due kamikaze si sono fatti esplodere questa mattina nel centro di Casablanca in Marocco. Si tratta di una notizia di ieri, di ieri in Italia, in Marocco. Lo ha riferito la polizia. Nei pressi del luogo dell'esplosione hanno sede il consolato americano e una sinagoga. Escludendo i due attentatori non vi sono stati altri morti, mentre una donna è rimasta ferita. Gli attentati giungono 4 giorni dopo analoghi attentati sempre nella città più grande del Marocco, e solo ieri delle autobombe erano esplose in Algeria, causando 33 morti e oltre 200 feriti. Quest'ultimo attentato è stato rivendicato da Al-Qaeda. Sabato 14 aprile il giornale britannico The Sun ha pubblicato stamattina un articolo in esclusiva mondiale dal titolo Wills and Kate Split, in cui dichiara che Kate Middleton, il cui nome intero è Catherine Elizabeth Middleton, ha deciso di interrompere la relazione con il principe William. La conferma è arrivata direttamente dagli amici del ragazzo. Kate aveva iniziato a frequentare William nel corso del 2001, durante il primo anno all'università scozzese di St. Andrews. L'accordo amichevole tra i due è stato raggiunto probabilmente anche a causa dei recenti fatti di cronaca. Il Daily Mirror aveva dichiarato nelle scorse settimane, ingiustamente, che William era stato duramente rimproverato da Kate in seguito a un tradimento. La ragazza ha presentato un reclamo al giornale che ha spinto il direttore Richard Wallace a scusarsi. A Londra Kate già da tempo era assiedata dai paparazzi, soprattutto durante il suo compleanno, il 9 gennaio. In quella occasione i giornalisti attendevano l'annuncio ufficiale del fidanzamento del principe, dopo che a Natale la ragazza aveva rifiutato l'invito al pranzo di Natale nella residenza reale di Sandringham. Al motivo della privacy della ragazza, violata innumerevoli volte dai paparazzi, secondo i tabloid, si aggiunge la carriera militare di William, che potrebbe aver distratto il ragazzo dal suo rapporto con Kate. Poi una notizia del 12 aprile... è morto Kurt Vonnegut, scrittore statunitense noto in special modo per le sue opere fantascientifiche e di denuncia sociale. Il suo romanzo più famoso è Mattatoio, numero 5, nel 1969, che attraverso la formula del viaggiatore nel tempo propone una riflessione sul senso della vita e contro la guerra. Aveva 84 anni. Notizie di scusate, sempre questa tosse, maledizione questo freddo. Mercoledì 11 aprile 2007, nel pomeriggio di mercoledì aprile 11, delle autobombe sono esplose nella capitale dell'Algeria, Algeri, causando la morte di circa 30 persone e 160 feriti. La rivendicazione è stata fatta da Al-Qaeda con una telefonata alla sede a Rabat di Al Jazeera. Un'autobomba è esplosa davanti a una sede di governo e altre due davanti a un commissariato. Queste tutte le notizie di Ciao Ragazzi per questa settimana. Dunque, passiamo invece adesso alle notizie dei club e associazioni. Associazione Trinacria. Il comitato dell'Associazione Trinacria invita i soci e simpatizzanti alla festa della mamma che si terrà sabato 12 maggio nei locali del Casteldoro Great North Road 5 Dock. Con inizio alle ore 18.30 in programma cena di ben sette portate, incluse le bevande e musica da ballo in compagnia di Gino e Jeff, estrazione di una ricca lotteria. Nel corso della serata verrà distribuito un omaggio a tutte le mamme presenti in sala. Per questa cosa è necessario prenotare telefonando ad una delle seguenti persone: Lombardo al 9797-6591, ripeto 9797-6591, oppure failla allo 0408-960-400. Questa è per la festa della mamma, sabato 12 maggio, organizzata dall'Associazione Trinacria. Poi l'Associazione Napoletana, il comitato dell'Associazione Napoletana comunica ai soci e simpatizzanti che sabato, scusate, passiamo a un'altra notizia. Ecco, l'Associazione Marchigiani di Newcastle, il comitato dell'associazione, ha organizzato una gita a Sydney per prendere parte alle manifestazioni autunno marchigiano che si terrà nella chiesa greca al 21 Harry Street, Leichhardt, domenica 22 aprile, partenza in pullman dalla Zurich Club alle ore 7, pranzo di 3 portate, incluse le bevande, al costo di $40 per persona. La manifestazione offrirà un'occasione di incontro ai marchigiani del New South Wales e la possibilità di trascorrere alcune ore insieme e discutere problemi di attualità o ricordare i paesi d'origine con le loro tradizioni. Prenotazioni entro lunedì 16 aprile, quindi entro domani, telefonando ad una delle seguenti persone: di Buresti allo 024961-6228, 024961-6228, oppure G. Crespi allo 02 49 69 62 53, 02 49 69 62 53. Alcune altre notizie locali al momento non ce l'abbiamo. Comunque grazie per essere con noi questa domenica su Ciao Ragazzi, scusate per la settimana scorsa, eccoci qua, vi sto proponendo scusate, un po' di musica nuova, però adesso un po' di musica storica della musica leggera italiana. Sto parlando del grande Battisti con La Canzone del Sole. State ascoltando a Ciao Ragazzi, sono le 23 e 18 minuti. Bentornati a Ciao Ragazzi, avete appena sentito La Canzone del Sole di Lucio Battisti. Che bello, che bello. Tra poco Vasco Rossi con una sua nuova canzone nella nostra classifica, poi un po' di Zero Assoluto e anche una bellissima canzone di Elisa, che ha una canzone che ha proposto al recente Festival di Sanremo. Dunque, questa settimana nella storia, nuova rubrica. Che bello, vi sento dire. Dunque, questa settimana nella storia. Scusate, si tratta del 1989, l'anno è 1989 e stiamo parlando di un evento vicino, diremmo quasi vicino a noi qui in Australia. Si tratta della Cina e la protesta di piazza Tiananmen, nota anche come il massacro di piazza Tiananmen. Iniziò da una dimostrazione studentesca portata in piazza Tiananmen nella città di Pechino, capitale della Repubblica Popolare cinese, tra il 15 aprile e il 4 giugno, infatti oggi il 15 aprile. La protesta, nata per denunciare l'instabilità economica e la corruzione politica dello Stato cinese, fu soppressa con la violenza da parte del governo sotto il controllo del Partito Comunista Cinese. Il numero dei morti causati dalla repressione è difficile da determinare, ma oscilla tra i 200 e i 300, e questi erano dati governativi, e 2.000-3.000 dati dell'Associazione Studentesca della Croce Rossa Cinese. La protesta studentesca cominciò nell'aprile del 1989, fu scatenata dalla morte di Hu Yaobang, il vice segretario generale del partito. Hu era considerato una persona delle idee liberali e fu obbligato alle dimissioni da parte di Deng Xiaoping, cioè venne giudicato molto negativamente da molte persone, specialmente da parte degli intellettuali. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio nei confronti di Hu Yaobang e richiedendo al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. La protesta divenne via via più intensa, dopo le notizie dei primi scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti si convinsero allora che i mass media cinesi, stessero distorcendo la natura delle loro azioni, che erano solamente volte a supportare la figura di Hu Yaobang. In occasione in occasione dei funerali di Hu, un vasto gruppo di studenti si recò in piazza Tiananmen chiedendo di incontrare Li Peng, oppositore politico di Hu, ma questi non volle ascoltare le loro richieste. A quel punto gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. Il 26 aprile un editoriale del People's Daily riportano un discorso di Deng Xiaoping, accusò gli studenti di complottare contro lo Stato e fomentare agitazioni di piazza. Questa dichiarazione fece infuriare gli studenti. Il 27 aprile circa 50.000 studenti scesero nelle strade di Pechino ignorando il pericolo di repressioni da parte delle autorità e richiedendo nuovamente che il governo ritrasse le dichiarazioni fatte in precedenza. Il 4 maggio circa 100.000 persone marciarono nelle strade di Pechino, 100.000 persone, chiedendo più libertà nei media e un dialogo formale tra le autorità del partito e una rappresentanza eletta dagli studenti. Il governo rifiutò la proposta di dialogo, acconsentendo solamente a parlare con i membri designati all'organizzazione studentesca. Il 13 maggio un folto gruppo di studenti occupò piazza Tiananmen, cominciando uno sciopero della fame, richiedendo al governo di ritrattare l'accusa riportata dall'editoriale del People's Daily e cominciare a parlare con una rappresentanza studentesca. Migliaia di studenti si unirono allo sciopero della fame, supportati da centinaia di migliaia di studenti e di residenti di Pechino. I manifestanti innalzarono al centro della piazza un'enorme statua alta 10 metri, chiamata Dea della Democrazia. in polistrolo e carpapesta, ispirata alla Statua della Libertà statunitense. Da notare che tra i manifestanti erano presenti anche comunisti dissidenti che cantavano l'internazionale inno. Il 20 maggio il governo dichiarò la legge marziale, tuttavia la protesta continuò. Dopo questa delibera dei leader del partito fu ordinato l'uso della forza per risolvere la crisi. Zhao Zhijiang fu rimosso dal suo incarico a causa della sua incapacità nel risolvere la situazione senza dover ricorrere all'uso della forza. L'attuale presidente della Repubblica Popolare Cinese, Hu Jintao, allora segretario del partito nella regione autonoma tibetana, prese posizioni molto dure nei confronti delle situazioni venutasi a creare, mandando un telegramma al vertice del partito, ove dichiarava di appoggiare in pieno l'uso della forza contro i manifestanti. Prima di assistere ad un'ulteriore escalation, nella notte tra il 27 e il 28 fu mandata a riprendere il controllo della città l'esercito di liberazione popolare, con i carri armati. Questi attaccarono gli studenti e i lavoratori nelle strade di Pechino. La repressione portò a morti sia tra civili che tra i militari. Ancora oggi le stime dei morti variano. Il governo cinese parlò inizialmente di 200 civili e 100 soldati morti, ma poi abbassò il numero di militari uccisi da alcune dozzine. La CIA stimò invece 400 a 800 vittime. La Croce Rossa riferì 2.600 morti e 30.000 feriti. Le testimonianze di stranieri affermarono invece che 3.000 persone vennero uccise. La stessa cifra fu data a un sito inglese di Pechino. La repressione di Tiananmen provocò la ferma condanna da parte di numerosi paesi occidentali nei confronti del governo comunista cinese. Oggi il clima si è riappacificato e la Cina è stata riaccolta dagli altri paesi nella politica globale. Ma gli eventi di Tiananmen sono ancora un argomento sensibile per il governo comunista cinese, che non fornisce versioni ufficiali dell'accaduto ed esercita forme di censura riguardo gli avvenimenti in questione. Questa è stata la settimana che fu nel 1989 in Cina. E tacere contato fatto. Dunque, eccomi qua, sono Roberto, state ascoltando Ciao Ragazzi. Adesso vi propongo una piccola canzoncina di un certo Vasco Rossi. Questo è Basta Poco, state ascoltando a Ciao Ragazzi. Ma prima, spot pubblicitario. E bentornati, state ascoltando a Ciao Ragazzi sulla frequenza 88.5 FM. Io sono Roberto. Come state? Spero bene, spero bene. Se volete mandarci un'email, l'indirizzo è ciaoragazzi2rrr@hotmail.com. Se volete chiamare lo studio, il numero è 981629 38. Interessante. E novità assoluta, novità. Se volete mandare un SMS al programma, potete farlo. Basta, se volete dirci qualcosa per SMS, oppure se volete fare una richiesta per magari il programma della settimana prossima, se c'è una canzone che vi attira, che vi ispira, che volete sentire primato in assoluto qui su Ciao Ragazzi. Dunque il numero per mandarci un SMS, dunque inviateci questo SMS con il nome della canzone, il nome dell'autore, se volete anche il vostro nome o qualche cosina, il numero è 0406, scusate che tosse, 0406 463 515, ripeto, questo numero SMS, se avete qualche richiesta, qualche canzone che volete sentire, qualche commento, mandateci un SMS a questo numero 0406 463 515 0406 463 515 e fateci sapere quello che volete ascoltare, quello che volete sentire e via via. Dunque, sono rimasti tipo, scusate, 20 minuti del programma. Io c'ho qua un comunicato stampa da Sandra Pitronaci, che sta organizzando un camp italiano. Dunque, benvenuti all'Italian Camp 2 quest'anno. scusate, mannaggia questa tosse, quest'anno il secondo Italian Camp si terrà a Narrabeen per studenti di italiano, giovani italo-australiani e gente interessata. Lo scopo del camp è di migliorare la conoscenza dell'italiano tramite laboratori, giochi, film, musica, partite di calcio, eccetera. Ci saranno insegnanti di varie università, un barbecue con l'Italo Australian Youth Association e gli studenti si divertiranno a fare attività come il Trivia Night e Italian Idol. Che bello. L'unica regola è di parlare solamente l'italiano per tutto il weekend. Il camp si terrà dal 27 al 29 aprile, costo solo $190. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Sandra Pitronaci a sandra.pitronaci@arts.ucid.edu.au. I posti sono limitati, quindi sbrigatevi a fare la prenotazione, oppure se volete ulteriori informazioni chiamateci qua al 981629938 oppure per SMS sul numero che vi ho appena dato e ve lo ripeto, SMS per ciao ragazzi a costo di un SMS normale, 0406 463 515, oppure ciao ragazzi 2rrr@hotmail.com. Vi metteremo in contatto con Sandra, dunque tra due settimane, dal 27 al 29 aprile. Dunque, state ascoltando, ciao ragazzi, adesso vi propongo un'altra canzone, cioè vi propongo, appena prima di partire, canzone presentata dai Zero Assoluti a Sanremo 2007, ci abbiamo la versione ufficiale, state ascoltando, ciao ragazzi, dopo questo stacco parleremo con Laura che sta scrivendo la tesi, Laura a Roma sta scrivendo la tesi, chiacchieriamo un po' con lei e poi un po' di Elisa, Tiziano Ferro e la canzone numero uno, che cosa sarà la nostra canzone numero uno questa settimana, tutto si rivelerà a presto. E bentornati, state ascoltando ciao ragazzi su 2RRR 88.5 FM. Ciao ragazzi, io adesso come promesso c'ho la simpaticissima Laura. Scusate per la tosse, in onda da Roma. Ciao, come stai? Come va? Laura, che fai? Ciao, bene, ciao a tutti. Ciao a tutti. Dunque, io ogni tanto a me viene questa voglia di chiamare amici e parlare in onda, fare qualche chiacchierata in onda, anche perché sarà molto divertente anche per i nostri ascoltatori sentirmi chiacchierare. Dunque, te ti stai per laureare, stai scrivendo la tesi di laurea. Sì, ho già consegnato tutto, parte burocratica, mi manca il CD da consegnare a maggio, una settimana prima, e poi la discuto. Bene, bene, ma di che cosa si tratta questa laurea? Ti sta laureando in cosa? I nostri ascoltatori non lo sanno apposta. Alla facoltà di medicina e chirurgia, il corso di scienze motorie. È bellissimo, lo consiglio a tutti perché è proprio divertente. Benissimo. E la tesi su che cosa si tratta? La tesi si tratta sulla ginnastica artistica, che è lo sport, diciamo, che ho praticato io e che comunque mi appassiona più di tutti, e riguarda sulla metodologia dell'allenamento per le bambine e per le ragazze un po' più grandi. Metodologia di allenamento per i ragazzi? Sì. Bene, bene, spiegami un po', io che non sono in forma, che cosa dovrei fare? Spiegami un po', cosa dovrei fare? Sono completamente fuori fase, fuori forma, assolutamente. No, basta camminare, sì, sicuramente basta camminare anche in un prato verde e... Ma basta solo questo? Diciamo. Basta solo camminare? Sì, già è tanto iniziare così, iniziare a sgranchire le gambe, a camminare un po' di più rispetto a quello che si fa nel normale. Ma tu lo sapevi, questa è una statistica interessante, che l'Australia è il terzo paese più obeso del mondo, dopo l'America e l'Inghilterra. Ci credo. È vero. No, non ci credo. È vero. E voi fate anche delle distanze lunghe, insomma, siete abituati ad andare a piedi, noi invece sempre con la macchina. Vai, forse la palestra e il fitness è un po' ancora... Il fitness è molto importante per gli italiani, mi sa. Qua in Australia c'è un po' di pigrizia. E no. C'è un McDonald's, a ogni angolo c'è un McDonald's. No, basta, una volta al mese il McDonald's, stop. Ecco, l'avete sentito da Laura che si sta laureando in medicina. Una volta al mese si può fare, se no sono guai, vi gonfiate un po' troppo. La gioia del mangiare ci deve essere, quindi mai, qualche volta sì, una volta al mese, non sempre, poi dopo diventa troppo. E bisogna camminare. I supplementi, queste vitamine contano per qualcosa, non so, fanno un sacco di pubblicità qua per vitamine, supplementi, eccetera. Che servono? Le vitamine, se già ne prendiamo abbastanza, mangiamo abbastanza, non servono. Certo, se c'è un fabbisogno generale, dopo varie analisi, si possono inserire queste vitamine. Comunque sono sempre, diciamo, pericolose se vengono sovradosate, no? Ah, ok, certo. Possono far male. Quindi non è una cosa che si fa a casaccio, uno non si sente tanto bene, dice, oh vabbè, mi prende un orale, vediamo quello che succede. No, bisogna vedere che cosa manca, quindi se ferro, calcio, non è che ci prendiamo ferro, calcio, vitamina A, B, C e poi alla fine non ci servono tutte, ma ce ne manca solo qualcuna. Poi. Ma quali vendono al supermercato? Fanno bene a venderli nel supermercato, sti supplementi? Beh, dipende da quali vitamine, alcune sono leggere, multicentrum leggera. Ok. Dipende. I understand, mi rivolgerò a te per tutti i miei quesiti sulla salute. Va bene. Dunque, parliamo a parte medicina, tu oggi che fai, dai? Oggi qui a Roma hanno aperto un centro commerciale grandissimo. Ah sì? È il secondo dopo Fiumicino, quindi sta, diciamo, Roma Est la zona, quindi proprio vicino dalle mie parti, sono Villa Triana, Tivoli. Uh-huh. E qui su Lunghezza hanno fatto questo centro commerciale che è grandissimo, c'è tutto dentro. Tanto ci faranno anche una discoteca. Una discoteca in un centro commerciale, ma no! E c'è anche il cinema nel centro commerciale. Che bello! Infatti, ce l'abbiamo anche qua, ma con la discoteca ancora non ci siamo arrivati. Sì, un po' come la Spagna, il Mare Magnum. Ma che bello. Programmi per comprare oggi una felpa oppure un... Per fare shopping, quello che trovo, la cosa più, diciamo, che vado a vedere oggi sono dei jeans che non ho finiti. Ah, l'hai finito i jeans? Sono consumati, sì, non esistono più. Sono consumati. Ok. E va, stop. Poi le borse, perché a me piacciono tanto le borse. Le borse. E poi forse cinema, dato che c'è all'interno delle sale ci sono questi grandi multicinema, andiamo a vedere un film. E quali film italiani vanno forte al momento? Quali sono i film? Al momento Ho voglia di te, con Scamarcio. Ok, Ho voglia di te. Sì. Prendete nota, ascoltatori, prendete nota, questi sono i film scelti da Laura. Da vedere. Poi 300, bellissimo. Oh, 300 l'ho visto, spettacolare. È bello anche se dipende anche di riconoscere la storia, perché alcune cose sono tralasciate, però è bello la passione che c'è nel film, quindi l'adrenalina che ti scarica tutto quando fanno le battaglie. Bello, bello, sangue dappertutto. Bello. Mamma mia, crudo sì. Bellissimo. E quindi ti passi una bella domenica, mi sa. Beh, speriamo, dai, anche perché qui oggi, ieri ha piovuto un pochino, ha fatto una settimana di sole, bellissima estate, sembravano 28 gradi, non so, mannaggia, 28 gradi! Sì, è arrivata all'improvviso, e invece oggi si è riannuvolato, però fa caldo già. Fa caldo meno già. Meno male. Quanto sarebbe bello venire in Italia per quest'estate, eh? Vieni! Quanto sarebbe bello venire in Italia, bagni di Tivoli! Ritorna qui, andiamo in piscina insieme. Che bello. Ricordi, i nostri ascoltatori non hanno potuto ascoltare a Ciao Ragazzi per ben 6 settimane, perché Roberto, in Italia! Che momenti belli. Comunque Laura, grazie, so che adesso devi andare al centro commerciale, però è stato davvero un piacere averti qua su Ciao Ragazzi. Un'ultima cosa che magari tu non sai e alcuni dei nostri ascoltatori non sanno, ma questa è una notizia big, che adesso questa trasmissione Ciao Ragazzi può essere scaricata in internet in formato MP3 come podcast in qualsiasi punto del mondo, quindi potete ascoltare a questa puntata e tutte le puntate di Ciao Ragazzi fino a 2 mesi fa. L'indirizzo è www.2rr.org.au e lì ci sono le puntate di Ciao Ragazzi. Laura, è stato bello sentirti di nuovo, parleremo a presto e adesso vi propongo Elisa con Eppure Sentire, la canzone numero 3. Laura, grazie, ciao. Ciao, un bacio, ciao. Bentornati su Ciao Ragazzi, la trasmissione, scusate, che tosse, avete prima parlato con, mi avete sentito parlare con Laura, una neolaureata, diciamo, bene, ha parlato un po' di quello che sta studiando, ha dato qualche consiglio, attenzione alle vitamine e ai supplementi, prima fatevi gli analisi, poi vedete quello che dovete fare, ok? E che è successo? Che è caduto? Che cosa è accaduto? Dunque, state ascoltando. Ah, ciao ragazzi, io sono Roberto e la trasmissione sta per finire. Dunque, in questa puntata di Ciao Ragazzi, un bel po' di materiale. Si è discusso con Laura, come ho detto, abbiamo fatto qualche annuncio locale. Vi ho detto il nostro numero di telefono, per mandare sms, e non ve lo ripeto perché l'ho detto già tante volte. Io ho ricordato che l'Italian Camp è aperto a tutti i giovani interessati per passare un weekend a parlare in italiano, esclusivamente in italiano, tante belle cose. E dunque, tutto qua, la settimana prossima torneremo qui su Ciao Ragazzi, chissà chi troverò per chiamare al telefono per fare una bella chiacchierata in onda di cose varie. Dunque, grazie per essere stati qua con me. Adesso passiamo alla canzone numero uno, che è una canzone di Daniele Silvestri, che è andata abbastanza bene a Sanremo quest'anno. Io ve la propongo e vi dico buonanotte e grazie per tutto. Ci sentiamo la settimana prossima su Ciao Ragazzi, e vi ricordo che sul sito della 2RRR.org.au seguite il link e potete scaricare questa puntata in formato MP3, esclusa la musica. Purtroppo la musica non la possiamo passare per il momento, quindi eccoci qua alla fine della trasmissione. Fate i bravi, se no vengo a casa vostra e vi do le botte. Questo è Daniele Silvestri con il latitante, grazie Franziska, grazie a tutti, ciao.